Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata, lo sapete, mi piace ripeterlo. Se ci ascoltate in replica alle 20.45, vi ricordo il mio blog sulla prima pagina del Sole 24 ore online. Si chiama Guardie o Ladri, blog in cui tratto temi di legalità. Come sapete, è il grande amore della mia vita, professionalmente parlando, ovviamente. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Ne riceviamo tantissime di mail, però vi ricordo di mandare sempre mail che possono interessare una categoria più ampia del singolo che scrive. È il caso, ad esempio, della mail che ci è stata mandata da Milano dalla signora Lucia Soldati Garlaschelli, che abbiamo collegata con noi. Buongiorno, signora Soldati Garlaschelli. Buongiorno, buongiorno, dottor Galullo. Allora, la signora Soldati Garlaschelli ha un problema che può sembrare anche, come dire, capzioso, ma che tale non è, perché riguarda centinaia, probabilmente migliaia di famiglie in Italia, ma anche fuori, ovviamente, dal singolo caso di Milano. Vale a dire, la signora Garlaschelli aveva necessità, e ha probabilmente ancora necessità, di affittare con quello che una volta veniva chiamato equo canone, oggi è invece un prezzo concordato, l'immobile del figlio che ha lasciato Milano per raggiungere Bologna. È così, no, signora? Esatto. Ecco, e sentiamo che cosa è successo dal suo racconto. Cos'è accaduto nel momento in cui lei ha deciso di mettere ad un prezzo concordato l'affitto di suo figlio a disposizione di chi ne aveva bisogno? Esatto, e mi sono documentata sulla normativa e sull'accordo che il Comune di Milano ha firmato con tutte le associazioni sindacali tipo Sunia, Sicet, Cogna, Esso Edilizia, U, eccetera, ce ne sono tantissime. Insomma, ha fatto il giro di tutte le parrocchie, diciamo. No, ho rilevato tutto su internet. Ah, ecco, cioè, bene, certo, la documentazione, certo. Il Comune di Milano ha firmato, certo, nel 99. E questo accordo prevede dei canoni calcolati preventivamente, ce ne sono di diverse categorie, ma interessava il concordato. E in base alla determinazione della microzona in cui è situato l'immobile in Milano, ci sono dei valori minimi e massimi con delle maggiorazioni aggiornate, abbastanza aggiornate, e moltiplicandolo poi per la superficie dell'immobile, la superficie commerciale, si determina il canone mensile che l'inquilino può potrebbe corrispondere. Ricordiamo che l'abitazione di cui stiamo parlando è un'abitazione di 100 metri quadrati circa, quindi insomma un bocconcino appetibile, insomma, per chi volesse trovare un alloggio con un canone concordato, con una certezza, una garanzia data non soltanto dalla chi mette a disposizione la casa, ma anche dal Comune di Milano. Insomma, un qualcosa che obiettivamente farebbe gola a molti. Però che cosa accade, signora Soldati Garlaschelli? Farebbe gola a molti perché potendo utilizzare questo canone concordato io potrei diminuire le mie pretese, le pretese di mio figlio chiaramente, e perché avrei delle agevolazioni fiscali in particolare a fronte di questo canone concordato, e anche l'inquilino avrebbe alcune agevolazioni. Certo, certo. Per cui questo minor introito verrebbe compensato da altri risparmi. Soltanto che dopo aver tribolato per cercare le microzone, perché non sono alla portata di tutti, e immagino, contrariamente a quanto nell'accordo era previsto, sono approdata all'ufficio del territorio in Via Larga, dove una gentilissima signora mi ha detto le condizioni, mi ha detto di quanto va aggiornato questo valore, che è ancora in lire chiaramente, questo valore a metro quadro va aggiornato del 20%, che se l'appartamento è arredato come lo è in effetti va aumentato un altro 10-15%. Io ho fatto tutti i calcoli e ne esce un canone assolutamente improponibile. Ecco, vogliamo dirlo quale sarebbe questo canone? Questo canone verrebbe di 500 euro al mese per un appartamento di 100 metri quadri in una casa molto dignitosa, con giardino, portineria fissa, ascensore, cioè una casa certo, anche finita bene, arredata bene. Assolutamente, quindi appetibile da questo punto di vista. E lei giustamente ad un certo punto che cosa fa? Mi pare di capire che sostanzialmente rinuncia a questa possibilità che la legge mette a disposizione proprio per l'irrisorietà del canone. Certo. Ecco, allora il problema è chiaro, si ripete non soltanto a Milano, ma si ripete in tutte le città d'Italia, in un modo piuttosto che nell'altro. È un problema, devo dire, ben documentato dalla nostra radioascoltatrice in maniera pacata, serena, civilissima, e quindi, siccome questa trasmissione, voi lo sapete, ama il contraddittorio, abbiamo chiamato con noi l'assessore al patrimonio, alla casa del comune di Milano, Giovanni Verga, il dottor Verga. Buongiorno assessore. Buongiorno a lei, dottor Galullo. Allora, lei ha sentito questa chiacchierata, effettivamente se così è e non abbiamo motivo di dubitarne, come dire, è un po' scoraggiante il canone che dovrebbe toccare a chi mette a disposizione il proprio immobile. Allora, qual è la riflessione che lei fa dopo aver ascoltato questa chiacchierata con la nostra radioascoltatrice? Guardi, la riflessione non è solo la riflessione mia, ma è la riflessione che stiamo facendo ormai da 2 anni praticamente, insieme agli altri assessori alla Casa d'Italia, perché stiamo lavorando su questi temi insieme nella consulta Casa dell'ANCI, che è l'associazione dei comuni. E stiamo riflettendo su questo tema come sugli altri, ma su questo tema in particolare in questo ultimo anno, nello specifico, perché quello che abbiamo chiesto e stiamo chiedendo sempre più in modo intenso al governo e al Parlamento è di riformulare questa legge 431, che è una derivazione successiva rispetto a quella dell'equo canone. Comunque è la legge 431 sulla base della quale sono stati poi stipulati quegli accordi che ha ricordato la nostra signora Soldati Garlaschelli a Milano nel 99, negli altri comuni più o meno nello stesso periodo. Certo. Riformulazione della legge per renderla adeguata alle novità e alle nuove esigenze e alle novità del mercato in genere. Assolutamente d'accordo. Ecco, volevo farle questa domanda, assessore, che è provocatoria, ma sono sicuro che lei la prenderà nel verso giusto, vale a dire un ulteriore spunto di riflessione. Ma lei l'affitterebbe una casa a 500 euro in una zona signorile di Milano, con rifiniture, portinerie, ascensore? Ecco, forse non lo farebbe neppure lei, suppongo. Mi scusi, ma io le stavo spiegando che stiamo lavorando su questa legge, certo, 431, perché c'è bisogno di adeguarla. Sì, sì, assolutamente. Adeguarla per tante questioni: la durata dei contratti, la certezza che una volta che il contratto si è esaurito il proprietario possa ritornare in possesso dell'immobile, e l'altro argomento, quello che giustamente la signora ricordava, è la remuneratività dell'investimento e quindi il valore dell'affitto, del canone d'affitto. Quindi non è solo uno il tema, non è solo quello del canone, ci sono molti altri punti che vanno rimessi in gioco in questa cosa. Assolutamente. Ecco, ad un certo punto della sua mail la signora Soldati Garlaschelli dice una cosa che è abbastanza, come dire, deprimente dal punto di vista dell'organizzazione, diciamo così, di una collettività organizzata quale dovrebbe essere la democrazia. Cioè dice: io mi sono rivolto in questo ufficio, mi corregga se sbaglio, signora Soldati Garlaschelli, e la stessa impiegata mi ha detto che praticamente l'ufficio non è frequentato da nessuno. Esatto. Questo perché ovviamente non c'è interesse. Lei lo conferma, assessore Verga, ma che effettivamente... Guardi, io volevo solo rappresentarle questo tipo di lavoro che stiamo facendo. Certo. Proprio perché il sistema delle questioni in gioco non riguarda soltanto il valore e il canone, ma riguarda anche gli altri aspetti che le ho ricordato. Assolutamente. A suo giudizio, assessore Verga, quando potrà esserci, come dire, un accordo tra i vari comuni che appunto siedono presso il tavolo dell'ANCI? Cioè, quanto tempo trascorrerà prima di una modifica concordata a questa legge? L'accordo tra i comuni c'è già. Bene. Il problema è del Parlamento che deve legiferare. Noi abbiamo chiesto più volte di intervenire e tra gli elementi fondamentali sui quali stiamo lavorando c'è quello di inserire anche un altro elemento importantissimo per tutti, che è quello fiscale, che va sotto il nome di cedolare secca, che è di fare in modo che i valori degli affitti, dei canoni, siano sottoposti a una tassazione uguale per tutti. Il punto di riferimento è il 20% dell'affitto. Benissimo. Questo semplificherebbe qualunque tipo di valutazione, proprio nello spirito che ci chiedeva la signora. Benissimo, assessore, io la ringrazio per questa chiacchierata, mi fa piacere dell'impegno di tutti i comuni per cercare di risolvere un problema che ovviamente, abbiamo detto subito in premessa, riguarda migliaia di famiglie in Italia. Ringrazio l'assessore Verga del Comune di Milano per il suo intervento, la signora Soldati Garlaschelli per la mail che ci ha inviato, in regia dico grazie a Filippo Oreggi, in redazione a Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.